Questa era la 37esima missione di una flottiglia e dal 2006 che attraversano il Mediterraneo per andare a tentare di rompere l'assedio marittimo che c'è a Gaza, quindi quello era l'obiettivo. L'altro era di portare aiuti e un terzo obiettivo era quello di tenere accesi i riflettori su quello che stava succedendo a Gaza. La cosa più importante forse di questa flottiglia è la presenza di ben 44 paesi, diverse religioni, persone di tutti i tipi, la quantità delle barche, perché eravamo più di 40 almeno alla partenza, varie partenze perché poi è stata fatta a tappe e i ritardi che ci sono stati dovuti al fatto che già a Tunisi alcune barche sono state colpite impunemente poi perché nessuno ha detto niente e quindi dopo una serie di ritardi siamo partiti anche noi che stavamo a Catania da Augusta e poi ci siamo però dovuti rifermare a Porto Palo, quindi nella punta più giù della Sicilia, per aspettare quelli che arrivavano da Tunisi, che si erano uniti con quelli da Barcellona. E intanto ci aspettavano però altre 6 barche in Grecia. A quel punto siamo partiti per la Grecia, dove in mezzo al mare dovevamo incontrarci con gli altri. Lì, il giorno prima di arrivare, siamo stati colpiti dai droni in acque internazionali e la mia barca, che era la Morgana, è stata colpita ben 3 volte e ci hanno fatto fuori la vela principale perché erano tutte barchette a vela e sopra c'erano dalle 8 alle 12 persone, quindi molto affollate, piene sotto di aiuti umanitari e di cose nostre per mangiare e doveva essere un viaggio che durava massimo 10 giorni, ne è durato 18 invece, quindi con tutte le difficoltà del caso perché c'è gente che stava male per il mal di mare, la paura, comunque i droni c'erano tutte le sere, questo ha fatto sì che comunque a parte qualcuno che è sceso perché giustamente ha deciso che forse non valeva la pena, che forse la paura era grande, che forse era passato anche troppo tempo perché alcuni avevano preso delle aspettative al lavoro e sono dovuti per forza tornare. Dopo la Grecia però si andava dritto in acque internazionali con tutto il timore del caso perché avevamo capito che se possono colpire in Tunisia, se possono colpire al largo della Grecia, possono colpire ovunque, parlo di Israele. In quel caso però sono intervenute 3 navi militari, una italiana, una turca e una spagnola, che però ci hanno accompagnato fino a 150 miglia da Gaza e poi nel momento più rischioso, ovvero dove noi sapevamo che erano state prese le flottiglie precedenti, quindi tra Cairo e Cipro, se ne sono andate via e quindi abbiamo proseguito da soli e infatti una notte ci hanno semplicemente bullizzato con i droni, accerchiandoci con altre barche, con le luci, la notte successiva invece ci hanno proprio abbordato, divisi in blocchi anche perché prendere tante barche era un po' difficile, noi tra l'altro avevamo dei problemi meccanici, non funzionava più il timone, il pilota automatico. Devo dire, la mia barca è stata quella trattata forse meglio perché avevamo 2 parlamentari a bordo. Le altre hanno subito cannoni ad acqua, sono stati legati, sono stati più maltrattati anche durante questo viaggio che poi è durato 7, 8, 9 ore per arrivare fino a Ashdod in Israele. A quel punto eravamo dei rapiti, perché dire che eravamo in carcere è un po' relativo perché sembrava che avessimo commesso qualche, chi va in carcere di solito ha commesso un reato. Sì, esatto. Noi no. A proposito di maltrattamenti, anche perché chi va in carcere, appunto, come dici tu, dovrebbe aver commesso qualche reato e quantomeno si aspetta un trattamento umano, non come quello che invece hanno anche raccontato altri giornalisti, come ad esempio Saverio Tommasi, che hanno parlato di insulti, percosse e anche l'obbligo di tenere la testa bassa quando si era arrivati in struttura perché altrimenti ci sarebbero state appunto delle conseguenze. Quindi ti volevo chiedere la tua esperienza personale durante la detenzione da parte delle autorità israeliane, se anche nel tuo caso è stata così effettivamente dura. Sì, lo è stata per tutti, ma per le donne secondo me c'è stato anche un gradino in più di umiliazione, perché quando togli il reggiseno, quando non dai gli assorbenti alle donne che hanno il ciclo, quando le costringi a mangiare per terra, quando le chiami puttane, a noi hanno tolto tutte le medicine, ma c'era gente che aveva medicine salvavita come la cardiospirina o i nebulizzatori per l'asma, quelli sono reati grossi, far rischiare la vita alle persone è al di là dell'essere detenute. Certo. proprio un comportamento. Poi è venuto il ministro della sicurezza Ben-Gvir e ci gridava terroristi. C'era questa immagine gigantesca che vedevamo da tutte le porte delle celle di Gaza distrutta con scritto la nuova Gaza, che noi non potevamo non vedere. C'era la povera Greta Thunberg, che è uno scricciolo, sembra anche più giovane dei 22 anni che ha, che la tenevano due poliziotti da una parte e dall'altra e le hanno infilato sotto braccio la bandiera israeliana. Hanno fatto di tutto per umiliarci, ma in realtà era difficile spezzare delle persone che erano tutte insieme e coese con un obiettivo, che era quello di tenere le luci accese su Gaza, far vedere come queste persone si comportano, e soprattutto sapevamo, anche se non potevamo veramente saperlo perché non avevamo più i cellulari, non avevamo niente, neanche la cognizione del tempo, però sapevamo che in Italia la gente per strada ci avrebbe in qualche modo protetto, la scorta mediatica e popolare è stata fantastica. Non c'è stato peggio di qualcuno che ha preso botte c'è stata anche una spalla slogata, ma non c'è stato peggio, perché secondo me sapevano che sarebbe successo il finimondo se fosse successo qualcosa, e questo lo dobbiamo alle persone, quelle semplici, di sicuro non al governo. Quindi, nonostante le fatiche del viaggio, gli attacchi dei droni e anche ovviamente tutto il lungo tragitto, per non parlare della lunga e dolorosa detenzione, l'Italia ha risposto e ha risposto presente, con 1 milione di persone scese in piazza a Roma lo scorso sabato. Qua a Bologna, ad esempio, sono scese 150.000 persone di venerdì invece. Dunque ti volevo chiedere, qual è il bilancio complessivo della missione e cosa pensi possa cambiare per le future missioni umanitarie a Gaza e non, anche perché sono anche già salpate altre navi verso Gaza? Esatto, il futuro è già presente, perché ci sono altre persone che stanno navigando verso di loro, e credo continuerà finché questa storia finirà, finché i palestinesi non potranno finalmente almeno avere un momento di tregua e poi la fine dell'occupazione, che credo nessuno meriti. Dal nostro punto di vista, io sono onorata di essere stata parte di quell'innesco che ha fatto ritrovare a molta gente la voglia di dissentire, di scendere in piazza e di far vedere che i governi dovrebbero essere dalla parte dei popoli, non degli interessi di altri, e questo credo sia stato evidente. Tutto questo dovrebbe essere tradotto però in qualcosa di poi concreto e duraturo. Io spero che quando la gente andrà a votare, saprà oggi cosa votare, saprà chi sono quelli che stanno dalla parte loro e chi invece no. Io mi sono sentita tradita, e lo dico, certo, da giornalista. Io non sono una vera attivista, io sono una che sta dalla parte dei vulnerabili, e sono salita su quelle barche per raccontare la loro storia, scoprendo poi che sarei stata anche protagonista. Gli attivisti veri sono persone che dedicano la vita a una causa, io forse la dedico a tante, perché poi mentre ero lì pensavo anche alle donne afghane, spererei che ci fosse qualcuno che fa questo per loro, a quelli che stanno in Sudan e allo stesso modo non ricevono aiuti umanitari. Ci sono 54 guerre in corso. Io vorrei che la gente capisse che la guerra non può essere la soluzione. Armarsi, cosa che rende ricchi alcuni, non è la soluzione per questo mondo.